Lo spettacolo è nato sostanzialmente un anno fa su una riflessione, insomma, tra i vari membri della compagnia sul tema del male. Diciamo, in una sessione di brainstorming, di chiacchiere anche in maniera informale, ci interrogavamo su il male, se esiste, se è una questione che dipende, diciamo, da un contesto antropologico, un contesto sociale, politico, o se effettivamente esiste un male universale. Mentre parlavamo un po' di queste cose, ci è venuto in mente, come materiale, diciamo, di partenza, il romanzo di Camus, La peste. Da lì abbiamo individuato un frammento che tratta, diciamo, si concentra sulla condanna di morte. Poco a poco, cioè, sorgevano naturalmente nuove idee, tra cui le confraternita della morte, o le cosiddette confraternita della misericordia o della buona morte. Quindi, tra La peste di Camus e uno studio che abbiamo fatto appunto su queste confraternita, in particolare quelle che stavano a Bologna, che riguardava la confraternita di Santa Maria della Vita e la confraternita di Santa Maria della Morte, abbiamo poco a poco creato la prima drammaturgia di Crete e Carne, che era già andata in scena, diciamo, in una sua prima versione di studio l'anno scorso, provando a creare uno spettacolo che fosse ibrido tra il teatro di prosa, la performance e il sound design e alcuni aspetti dell'installazione. Beh, vogliamo ricordare anche che ci sarà un workshop, giusto? Per questa occasione, appunto, dopo diciamo, la prima messa in scena, che era sotto forma di studio, abbiamo sviluppato ulteriormente la drammaturgia, abbiamo inserito un'altra delle attrici della compagnia che inizialmente non faceva parte del progetto, e per questa occasione vorremmo fare, diciamo, una messa in scena particolare, coinvolgendo anche i partecipanti di un laboratorio apposito intitolato Gli Appestati. Il laboratorio si terrà il 5 dicembre e il 6 dicembre, sempre presso il MetBo. È un laboratorio, diciamo, relativamente intensivo di 2 giornate nel pomeriggio, in cui vorremmo affrontare sempre appunto un confronto con appunto persone nuove sul tema del male, sul tema della crudeltà, il tema della pena di morte, le ferite che abbiamo, tutte le sfumature, diciamo, che un tema come questo ci offre, attraverso un approccio tendenzialmente fisico o performativo. L'idea quindi sarebbe quella di confrontarci con loro, con i partecipanti, e di creare dei quadri che vadano a rappresentare nuove sfumature che magari noi non abbiamo ancora considerato. Perfetto, allora ricordiamo un'ultima volta i giorni e il luogo in cui si terrà lo spettacolo. Lo spettacolo si terrà venerdì 6 dicembre alle ore 21 presso il MetBo di Cantieri Meticci.